L'altro pianeta di Laura Bettini. Buonasera e ben ritrovati, una nuova puntata dell'Altro Pianeta nella quale andremo a Bergamo, perché ci è capitato di passare qualche settimana fa al Festival dell'Ambiente di Bergamo, appunto. Bergamo è una città ben nota per la sua laboriosità e ricchezza di industrie, ma forse anche per questo è una città che da tempo si interroga sui suoi doveri nei confronti dell'ambiente e sulle possibilità di migliorare in materia di sostenibilità ambientale. Ci sono molti gruppi, molte associazioni che lavorano in questi campi e poi producono manifestazioni come il Festival dell'Ambiente, di cui parleremo tra poco, ma come anche il Festival dell'Energia, di cui parlammo in altre puntate di questa trasmissione. Il Festival dell'Ambiente si concentra in 3 giorni, prevede convegni, esposizioni, mostre, concerti e, caso raro se non unico, ha origine in un giornale locale che si chiama Bergamo Sostenibile, che a sua volta venne alla luce nel 2012, quindi in tempi molto recenti. In soli 3 anni questo giornale ha avuto sufficiente seguito e successo da dar vita a un festival che è stato davvero partecipato nonostante l'annata davvero sfavorevole da un punto di vista meteorologico. A Bergamo, durante il festival, abbiamo incontrato Diego Moratti, che è direttore responsabile di Bergamo Sostenibile, Marco Rossi, editore di Bergamo Sostenibile e presidente dell'associazione Festival con Roberto Gualla. E poi abbiamo ritrovato i nostri amici musicisti ricicloni, per così dire, i Manzella Quartet. E questo colloquio, quindi, a quattro vi proponiamo. Diamo prima la parola a Diego Moratti, quindi sentiremo Marco Rossi. Io appunto da giovane imprenditore avevo questa mia nuova attività da aprire come giornalista e Marco aveva invece l'esperienza in campo ambientale, veniva dal mondo della tipografia e soprattutto dalla certificazione ambientale per le tipografie. L'idea è stata, uniamo le competenze e proviamo a divulgare, quindi attraverso un giornale, le buone pratiche in particolare la missione principale che ci siamo posti era come promuovere e sensibilizzare verso stili di vita e di impresa più sostenibili. Da lì ci siamo buttati a capofitto nell'idea, abbiamo raccolto uno dei nostri problemi principali all'inizio, pensavamo di non avere così tanto da raccontare e invece quello è stato l'ultimo dei problemi, tant'è che fin dalla prima edizione abbiamo dovuto tagliare un sacco di notizie e informazioni, perché 60 pagine del giornale l'abbiamo sempre riempito, sempre dovendo tagliare delle informazioni. Abbiamo iniziato a novembre 2010, all'inizio è stato un periodico bimestrale, quindi uscivamo ogni 2 mesi e in 20.000 copie, ma dopo un anno, così l'apprezzamento del giornale, abbiamo visto che la tenuta, la sostenibilità anche economica del giornale teneva. Che non ha patrocini, sponsorizzazioni, ma si mantiene attraverso la pubblicità. Esatto, abbiamo fatto questa scelta, è stata una scelta difficile e sofferta, ma abbiamo scelto di non avere patrocini, di non avere contributi di nessun tipo, se non la vendita, pura vendita di spazi commerciali del giornale. Però insomma il progetto stava in piedi, il pubblico apprezzava e allora dall'anno successivo siamo diventati mensili con 30.000 copie distribuite in tutta la provincia di Bergamo. Adesso siamo sulle 500 punti di distribuzione che potete trovare sul sito www.bergamosostenibile.com. Ecco, l'anno successivo, anzi dopo un anno e mezzo, abbiamo anche aperto il sito web, siamo in Twitter, Facebook, quindi pian piano si è ampliata il raggio d'azione di questo giornale e il feedback positivo è che sempre più associazioni, sempre più comuni, sempre più istituzioni, sempre più aziende ci cercano rendere conto alla popolazione quello che fanno, le pratiche sostenibili che portano avanti. E negli anni le avete viste crescere queste pratiche sostenibili? Che la qualità della proposta che vi arriva è cresciuta? Ma Bergamo è un tessuto che si è dimostrato subito molto sensibile alle tematiche appunto della sostenibilità. Un dato su tutti è che Bergamo, oltre a essere in tutta Europa il comune che ha maggior, la provincia che ha maggior numero di comuni in tutta Europa, 244 comuni Bergamo, nessun'altra città, provincia in Europa ne ha tanti, ma di questi 244 comuni più di 210 hanno aderito al patto dei sindaci. Quindi questo progetto che declina il protocollo di Kyoto a scala locale, no? Quindi sono i sindaci che si sono impegnati a rispettare questo famoso 20-20-20 del protocollo di Kyoto. Capite bene che con un numero così alto di comuni e di sindaci che si sono impegnati, noi abbiamo trovato un terreno veramente fertile da questo punto di vista, e questo è anche stato uno dei motivi che ci ha fatto dare il là a questa iniziativa. Attraverso questa adesione al patto dei sindaci, ovvio che si è innescato tutto un movimento di aziende che si sono dedicate o riconvertite alla green economy. E tant'è che Bergamo è anche la provincia che ha preso per esempio maggior fondi dalla fondazione Cariplo, appunto, proprio per il patto dei sindaci, perché la provincia ha fatto un po' da capofila, ha riunito un po' questi comuni e in maniera aggregata hanno partecipato a questi bandi, appunto beneficiando di diversi incentivi da questo punto di vista. Questo ha dato una maggior linfa alla green economy, soprattutto quei capitali oggi necessari per partire con delle nuove attività, e quindi noi ci siamo presentati proprio in un momento topico. Voi prima mi dicevate, ed è un dato molto importante, che nel fare tutto questo lavoro in pratica voi date forza anche alle amministrazioni che si impegnano in prima persona, che portano dei risultati, che attraverso il vostro giornale comunque hanno la possibilità, diciamo, di avere in mano qualcosa, di presentarsi nel consiglio comunale dicendo: questo l'abbiamo fatto, questo è stato apprezzato, è stato pubblicato addirittura, e quindi continuiamo su questa via. Sì, questo è stato indipendentemente dal partito, ovviamente, che esatto, è stata una precisa scelta editoriale che cerchiamo di spiegare sempre, perché appunto, come diceva Marco, noi siamo apartitici, apolitici, nasciamo appunto senza neanche patrocini di comune o di provincia. Che quando ci presentiamo, che intervistiamo i politici, diciamo: noi non abbiamo preferenze politiche, adesso ci siete voi, c'è questa lista, questa parte politica al governo, e quindi per noi voi siete i riferimenti che abbiamo, e promuoviamo le buone pratiche che portano avanti, non solo l'assessorato all'ambiente, piuttosto che quelle di altri assessorati, perché vogliamo dare visibilità alle opere buone, piccole o grandi che siano, fatte dal singolo assessorato all'ambiente del comune grande come dei comuni più piccoli. Questo per dare maggiore forza contrattuale al singolo politico che magari ha a cuore l'ambiente o le politiche ambientali, dargli più forza e visibilità nei confronti dei magari propri colleghi di partito che non la pensano così. Allora, in attesa che nascano anche Brescia Sostenibile e Brianza Sostenibile, che sono due pubblicazioni sulle quali state ragionando, no Marco? Io passerei a coloro che ci hanno portato qui, cioè dei nostri vecchi conoscenti, Manzella Quartet, abbiamo Giovanni Sessa. Come siete arrivati a Bergamo? Beh, ci siamo. Voi da quando ci siamo conosciuti di strada ne avete fatta, vi ho vista a Roma, a Canale 5, qua e là, su e giù, e a Bergamo? A Bergamo ci siamo arrivati per due strade completamente diverse ma comuni. Praticamente io sono andato a vendere la carta da stampa alla tipografia da dove viene Marco, e nello stesso momento Alessandro aveva conosciuto Marco per altri motivi, e siamo un gruppo ecosostenibile, non potevamo non essere al Festival dell'Ambiente, questo mi sembra, della nostra città, perché non è poco. Noi veniamo comunque, almeno la metà del gruppo viene da Bergamo, gli altri due sono verso Crema, Cremona, giù di là, però la metà è... Diciamo che anche voi avete contribuito negli anni, perché appunto sono anni che voi suonate con questi strumenti costruiti con oggetti di recupero, in modo, diciamo, sostenibile. Avete contribuito alla formazione anche della città di Bergamo, mi pare, Alessandro. Possiamo dire un po' che anche voi fate parte di questo movimento di Bergamo Sostenibile? Sì, noi cerchiamo di esprimere il nostro pensiero ecologico con la musica, quindi il senso è sempre quello: qualunque oggetto che sembra da buttare in realtà può essere utilizzato per creare strumenti musicali. Nelle piazze che avete girato, Giovanni, come avete visto, percepire il vostro impegno, insomma, sostenibile? Sta migliorando di anno in anno, devo dire che stiamo facendo veramente delle grosse cose. Tanto per darti un'idea, quest'anno non ci siamo presentati a nessuno, ma c'è stata una serie di richieste da tutta Italia. Vuol dire che il messaggio sta passando e la gente guarda sempre di più all'ecosostenibilità. Anche gli organizzatori vi hanno dato l'idea di avere un reale interesse, non soltanto dire: porto un gruppo di questo tipo così particolare perché è di moda. io direi che l'attenzione c'è, cioè nel senso che mentre prima era solo un qualcosa di messo là in fondo all'orizzonte, adesso vedo sempre di più persone che cominciano a crederci veramente. Vai, son tornato là, la casa mia non c'è, ora c'è un motel. C'è già più. Grazie a tutti gli ospiti di questa tavola rotonda che abbiamo improvvisato al Festival dell'Ambiente di Bergamo. Ricordo che abbiamo sentito l'editore del giornale Bergamo Sostenibile, Marco Rossi, il direttore di questo giornale, Diego Moratti, e per i Manzella Quartet, che sentiamo ancora in sottofondo, è stato con noi Giovanni Sessa, padre e patriarca del gruppo, per così dire, e Alessandro Castelli, cantante e chitarrista. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora.